Focus Economia di Sebastiano Barisoni. A 7 e 8 minuti inizia un'altra puntata di Focus Economia. E allora, borse da una parte, economia dall'altra, uno scenario che abbiamo già visto altre volte, questa volta però a parti invertite, nel senso che anche oggi le borse vanno bene, più 2% Milano, più 1,5% in media l'Europa. Ma le previsioni economiche, ve le hanno appena ricordate i nostri GR delle ultime ore, diffuse oggi dal Fondo Monetario Internazionale in quello che si chiama l'outlook di primavera, ossia il rapporto primaverile, sono tutte in peggioramento, con addirittura un PIL italiano che quest'anno dovrebbe fare un meno 4,4%, una cifra e un calo oggettivamente che lascia sbalorditi. Abbiamo già visto, dicevo, lo scenario in cui le borse si muovono in un senso e l'economia in un altro, lo abbiamo visto però fino a fine del 2007, inizio 2008, in senso opposto, l'economia aveva ancora il segno in più, le borse invece avevano già preso a calare pesantemente. Se questo vuol dire, per questo intendo lo scenario di questi giorni, che le borse stanno scontando una ripresa e un miglioramento del ciclo economico in generale, della situazione finanziaria in particolare, che l'economia invece, arrivando come sempre più tardi, il ciclo economico non ha ancora visto, ce lo auguriamo. Speriamo appunto che non sia un fuoco di paglia quello delle borse. Molto bene Pirelli, quasi il 10% di rialzo, 9,80, bene anche Autogrill, più 7,5, Buzzi Unicem più 5,5, Geox più 5, Mediobanca più 4,7, Atlantia più 4,3, Lottomatica guadagna il 4, Tenaris il 3,80, Prismian il 3,40, come Mediaset il 3,20 lo guadagna Luxotti, che è anche il Banco Popolare, il 3% è il rialzo della CIR, come quello di Fondieri Assai e di Finmeccanica, Alleanza più 2,90. Anzi più 3 adesso. Bene generale dicevamo, ma anche Intesa San Paolo più 2,5 come Saipem e Unicredito al Monte dei Paschi, anche Unipol. Chiudiamo con Italcementi, Impregilo e Telecom Italia in rialzo del 2%. Chi perde? Poca roba, Campari meno 1,6, Parmalat meno 1,1. Mediolanum meno 0,80, euro a quota 1,30, l'America va leggermente bene, più 0,4%, questi mercati quindi. Sul fronte opposto invece il PIL mondiale, secondo il Fondo Monetario, arretra nella maggiore crisi finanziaria dalla Grande Depressione, scrive il Fondo Monetario Internazionale. La frase di quelle che di solito evocano anche un animale a noi noto, la maggiore crisi finanziaria dalla Grande Depressione, e infatti l'economia del mondo si contrarrà dell'1,3% quest'anno, il peggior calo dal 1945, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Nel 2010 invece l'economia crescerà di un 2%, tra l'altro sono tutte stime che vedono un peggioramento doppio rispetto a quanto il fondo aveva previsto solo a gennaio scorso. A gennaio aveva detto meno 0,5, quest'anno l'economia mondiale è più 3% nel 2010, adesso dice meno 1,9, quindi è quadruplicato quasi il dato in negativo, e più 1,9 l'anno scorso, il prossimo anno è anche qui dimezzata. Male l'America, meno 2,8, prezzi in deflazione in America, disoccupazione che schizza al 9% e al 10% nel 2010, una cifra impressionante in America, vedere la disoccupazione al 10%. L'Italia meno 4,4 quest'anno, e Italia in recessione anche nel 2010. Questa non è sicuramente una bella notizia, perché spesso ci siamo detti, ci siamo augurati che il 2010 fosse l'anno in cui l'Italia conosceva un po' di crescita. Invece il Fondo Monetario dice meno 0,4, il deficit che schizza al 5,5% nel 2009 e al 6% nel 2010. Altre buone notizie, andiamo avanti, il debito nostro che va al 115% del PIL nel 2009, al 121% in assenza però di manovra nel 2010. L'Irlanda farà peggio di noi quest'anno, meno 8%, è un crollo del PIL vero e proprio quello irlandese. La Germania farà peggio di noi, meno 5,6%, la Gran Bretagna più o meno come noi, meno 4%, difficile dire mal comune, mezzo gaudio. Insomma, una puntata che inizia bene, tutta l'insegna dell'ottimismo, e quindi esorcizziamola subito prima di andare avanti con il resto di questa analisi. E gufo sia, fin da subito facciamo chiarezza con quello che poi commenteremo del Fondo Monetario Internazionale. Speriamo che, visto che si era sbagliato per eccesso a gennaio, speriamo che adesso si sbagli per difetto e quindi che magari nella prossima revisione corregga un po' queste previsioni che, così come sono, nonostante la primavera incipiente, fanno rabbrividire. Noi andiamo avanti invece, ne parleremo comunque tra pochi istanti, chiaramente parleremo di Fondo Monetario Internazionale, dei bilanci, dei trucchi contabili delle banche americane che hanno diffuso queste trimestrali tutte o quasi tutte positive, però c'è chi fa notare, attenzione, lo stesso governo americano che sta giocando in maniera poco trasparente con questi bilanci. Restiamo in tema invece di economia europea, perché oggi in Gran Bretagna è stata presentata la finanziaria 2009-2010. La Gran Bretagna prevede un PIL quest'anno in calo del 3,5%, ma una ripresa nel 2010 più 1,2%. E il ministro dell'economia, che in Gran Bretagna si chiama cancelliere dello scacchiere, nella persona di Alistair Darling, ha detto che l'economia dovrebbe tornare in Gran Bretagna a crescere entro la fine dell'anno. La finanziaria annunciata oggi aiuterà la gente in questo momento di recessione globale. Innanzitutto aiuteremo le persone a riavere velocemente un posto di lavoro. Aiuteremo famiglie e imprese in difficoltà. Investiremo nelle scuole, ospedali e in altri servizi pubblici importanti. Questa finanziaria rafforzerà la nostra economia più velocemente, così da creare occupazione e benessere. La finanziaria porterà il paese fuori dalla crisi economica globale più severa da oltre 60 anni. L'impatto della crisi è stato sentito in ogni continente e in ogni paese. L'economia mondiale era sprofondata in una crisi molto grave negli anni 30, ma le risposte allora erano state tardive. E quel ritardo ha trasformato una crisi seria in una prolungata depressione. Non ripeteremo gli stessi errori, perché abbiamo lavorato per eliminarli intraprendendo azioni che ci danno speranza e fiducia. Misure prese a livello internazionale e quelle annunciate oggi ci fanno pensare che l'economia tornerà a crescere verso la fine dell'anno. Andiamo avanti, vedo già al 349-238-6666 le vostre critiche al Fondo Monetario Internazionale, lo sappiamo, ci possono essere molti dubbi, li abbiamo subito gufati, cosa dobbiamo fare di più? Andiamo avanti invece, perché oggi l'Istat ha diffuso il dato sugli italiani in povertà assoluta, resta ferma la cifra e quindi in qualche modo un dato che è nella scia di quanto ieri annunciato dalla Banca d'Italia, che dal 93 al 2007 non è aumentata la divaricazione tra ceti ricchi e ceti poveri nel paese. Ne parleremo nella seconda ora, perché poi dentro quel dato invece le classi sociali si sono mosse e hanno subito di più impiegati e operai, hanno guadagnato invece qualcosa di più liberi professionisti, lavoratori autonomi e anche pensionati. Ma oggi l'Istat conferma 2,5 milioni di persone in Italia vivono in povertà assoluta. Praticamente la povertà si concentra al sud al 5,8% del totale, al nord al 3,5%, al centro al 2,9%. Stiamo parlando di 975.000 famiglie, secondo l'Istat, i poveri tra i poveri, ossia il 4% dei nuclei familiari. Qualcuno di voi avrà sentito in questi giorni, anche Radio 24, una pubblicità in cui Marcello Lippi dà la formazione della nazionale tutta sbagliata con i nomi, una pubblicità contro la contraffazione, buffone, Zambrotto e quant'altro. Ebbene, oggi invece il Censis ha pubblicato lo studio su quanto fattura il mercato del falso, del tarocco come si chiama in gergo, 7 miliardi di euro all'anno, con una conseguenza per le casse dello Stato di mancato gettito fiscale pari a 5 miliardi e 300 milioni. Stiamo parlando di tutto, quindi abbigliamento e accessori della moda, che è il settore più colpito dai falsi, 2 miliardi e 600 milioni. Poi i comparti dei CD, dei DVD, del software, 1 miliardo e 600 milioni di falsi, e anche i prodotti alimentari, qui ancora più delicata e grave la situazione, perché mettersi una maglietta falsa è un reato, ma non è un danno per la salute. Sui prodotti alimentari si va anche sulla salute. Sentiamo allora il presidente del Censis, Giuseppe De Rita, che è intervistato dal nostro Andrea Viali, ha ricordato come dalle nuove tecnologie può arrivare un aiuto proprio alla lotta alla contraffazione. Il vero punto di svolta è di mettere insieme repressione e cesellatura dell'intervento, delle tecnologie. Finora abbiamo sempre pensato alla repressione, un contrasto della repressione, quindi guardia di finanza, carabinieri, dogane, eccetera, eccetera. Necessari, fondamentali, sono quelli, fra l'altro, che hanno i numeri, hanno il polso della situazione. Da oggi in poi comincia invece l'esigenza di avere tecnologie, nel codice a barre ci si deve mettere l'informazione di dove viene quel prodotto, come è fatto, con quale semilavorati, eccetera, eccetera. E naturalmente fare tecnologica, seguire tecnologicamente il prodotto, non seguire i flussi, perché basta un buon sistema informatico, ma seguire il prodotto, definirlo, certificarlo, è quello che è più importante. Oggi c'è questo rapporto fra tecnologia e repressione che è la vera novità di questo momento. E sempre in tema di contraffazione, il ministro delle politiche agricole Luca Zaia ha detto per quello che riguarda l'agropirateria non ci vogliono chiacchiere ma tolleranza zero, queste schifezze devono sparire dai nostri mercati. Chi invece dai mercati, ma quelli borsistici, ha rischiato di sparire veramente dai mercati finanziari sono state nell'ultimo anno le grandi banche d'affari americane, che proprio la settimana scorsa e anche all'inizio di questa settimana hanno pubblicato le trimestrali, quasi tutte meglio delle attese. Bank of America 4 miliardi 200 milioni di utili, Citigroup 1 miliardo e 600 milioni, JP Morgan 2 miliardi e 100 milioni, Goldman Sachs 1 miliardo e 800 milioni. Oggi ha rotto un po' questa così festeggiamento per le trimestrali Morgan Stanley, che ha invece avuto un risultato peggiore delle stime, meno 177 milioni di dollari. Nel giorno in cui ve l'hanno già parlato i nostri GR, si è impiccato David Kellerman, il Chief Financial Officer, il responsabile finanziario del colosso dei mutui Freddie Mac. Aveva 41 anni e lavorava da 16 anni a Freddie Mac, ed era diventato uno dei riferimenti della rabbia americana nei confronti della gestione di Freddie Mac e Fannie Mae. Io ricordo le due grandi agenzie che gestiscono la maggior parte dei mutui americani, salvate perché commissariate dal governo americano. Questa è una notizia però di cronaca che nulla c'entra col ragionamento che stiamo facendo. Dicevo, si stava parlando di contraffazione e di merce taroccata. Ecco, non vorremmo che in questi bilanci delle grandi banche americane un po' di taroccamento ci fosse, o meglio, per essere più eleganti, di abbellimento contabile, di maquillage nel bilancio, ed è questo il nostro primo tema. Intendiamoci, siamo molto contenti che le trimestrali americane siano state positive, ci lasciano più perplessi alcune regole con cui queste banche americane hanno redatto i loro bilanci, perché qualche aiutino l'hanno avuto dalla stessa Casa Bianca. Per esempio, le nuove regole hanno permesso alle banche di mettere a bilancio, di contabilizzare le attività tossiche, cioè tutti quei titoli tossici che ancora hanno in pancia, non al valore di mercato, che è un valore bassissimo se non quasi inesistente, ma al valore che loro ritengono accurato nel caso di una crisi di liquidità, quello che si chiama, l'abbiamo già parlato, stress test, per cui come si fa con una struttura ingegneristica, si immagina la situazione peggiore e si va a vedere come reggerebbe la banca. Ecco, loro queste attività tossiche non le hanno messe dentro al valore di mercato, le hanno messe in base a quello che loro ritengono essere il valore sotto una, in presenza di una crisi di liquidità. Per dirla tutta e magari un po' in maniera brutale, è come se uno andasse in banca e dicesse alla banca: la mia casa vale non quello che il mercato dice che vale, magari è stato un crollo del mercato dell'immobile, ma quello che io ritengo che la mia casa che potrei ottenere dalla mia casa se avessi un grosso problema finanziario in famiglia. Beh, ne vedremo delle belle, perché ognuno ritiene che a casa sua valga molto molto di più anche in presenza di una crisi sua finanziaria di quanto poi il mercato non la valuti. Altro trucchetto contabile: si è permesso alle banche americane di sottovalutare le proprie passività. Passività vuol dire il segno meno, anche qui un po' brutalizzandolo, come il debito obbligazionario. Anche qui si è detto: attenzione, il valore di mercato non deve essere il riferimento. E poi un piccolo trucco contabile gliel'ha permesso, anzi l'ha messo proprio in atto il Tesoro americano. Perché? Perché nell'aiutare le banche americane in questi mesi, in questo anno, il Tesoro inizialmente aveva offerto azioni privilegiate. Ora non vorrei entrare troppo nel tecnico, ma le azioni privilegiate sono quelle azioni, ma esistono anche in Italia, che non danno diritti di voto, però danno rendimenti più alti, per cui uno quando si compra le privilegio semplicemente vuole partecipare ai dividendi, non vuole decidere nulla nella gestione di una società. E questo era anche l'atteggiamento, secondo la dottrina americana, più corretto, per cui il Tesoro non voleva comprarsi pezzi di banche, voleva semplicemente garantire la liquidità alle banche, ma non statalizzare le banche. E invece adesso scopriamo che il Tesoro americano sembra intenzionato a cambiare queste azioni da privilegiate a ordinarie, e quindi a diventare azionista a tutti gli effetti, anche sul diritto di voto, sulla gestione delle banche americane in crisi. Piccolo particolare, perché lo fa? È perché quando si fanno gli stress test, quelli che ricordavamo, cioè si immagina la peggiore situazione possibile e si va a vedere come la banca reagisce, ebbene, se ci sono azioni ordinarie del Tesoro, il giudizio migliora. Per cui in qualche modo si vanno, se mi permettete, a taroccare un po' anche questi test. È come se, per vedere se un ponte regge, io quando vado a fare il test gli mettessi qualche putrella in più e poi andassi a dire: beh, vedi che regge. Professor Alberto Bisin in collegamento con noi da New York, dove insegna alla New York University. Buonasera. Buonasera, buonasera. Ho un po' esagerato? No, nel senso che a me fa un po' ridere, perché insomma, se io andassi in banca e dicessi: guardi, mi faccio un prestito perché la mia casa, il mercato la quota 300.000 euro, poniamo, ma io sono convinto che quando avrò bisogno di soldi, se mai perderò il lavoro, la riuscirò a vendere a 400.000, sarebbe bello vedere la banca che dice: Barisoni, bravo, sono d'accordo con lei, le do 400.000, no, perché è un mondo tutto... Cioè, quello che vale per loro non vale per noi. Questa è una cosa che mi fa impazzire. Comunque, no, da cosa nasce? Io capisco non seminare il panico, e va bene. Sì. Capisco non avere delle trimestrali che ci obblighino a usare il gufo come base costante di questo programma. Ma cerchiamo anche di non esagerare, perché c'è un'espressione in veneziano, in Veneto, che dice: danna mande bianco, cioè danna bella pitturata di bianco, non risolve molti problemi di queste banche, o no? Certo. Sì, non solo non li risolve, quello sarebbe anche il meno, no? Nel senso che, chiaro, non risolve i problemi, pazienza, ma peggiora la questione, nel senso che rende il tutto molto meno trasparente, per cui oggi è difficile capire, diciamo anche per gli esperti apparentemente, è difficile entrare nei bilanci di queste banche e capire oggettivamente come sono valutati questi asset. Lo era prima e lo è ancora di più oggi, perché appunto si possono usare questi trucchetti, e quindi insomma, se il problema fondamentale in questo momento è capire chi sta bene e chi sta male e ricapitalizzare chi sta bene, non si riesce a farlo. E stranamente, diciamo, in un certo senso questo era anche l'obiettivo dello stress test, era quello di capire chi stava bene e chi stava male tra le banche. E invece apparentemente c'è tutto questo tentativo di, come dire, nascondere la realtà, e ha ragione lei, cioè sembra una cosa è cercare di evitare il panico, un'altra è rendere la questione così vaga, così nebbiosa, che poi nessuno sa nulla e siamo da capo, insomma. Ecco, lei oggi sulla stampa, proprio in un articolo, in un fondo che si chiama titolato Mercati e trucchi contabili, scrive una cosa a mio avviso ancora più grave, mentre invito i nostri ascoltatori che scrivono al 349-238-6666, adesso arriviamo anche alle risposte. Lei dice, questi trucchi non è che se li sono inventati, o se li siano per essere più corretti, inventati le banche americane e i loro manager, che in questo momento, voglio dire, sono assolutamente sotto controllo, ma fanno parte di una generale tendenza alla mancanza di trasparenza del governo americano in materia finanziaria. Ma come? Adesso che c'è Barack Obama, che c'è Geithner, che voglio dire, la trasparenza deve essere il nuovo mantra della finanza mondiale, a maggior ragione di Wall Street, lei si permette di scrivere una cosa del genere? Dunque, no, sì, mi permetto di scrivere una cosa del genere. Io sono rimasto estremamente, diciamo, colpito negativamente da Geithner, insomma, nel senso, lo conosco e ne ho scritto bene, lo stimavo e lo stimo, però devo dire, diciamo, da quando, anche prima, ma insomma, comunque, diciamo, non ho visto nessuna differenza da quando gestisce lui il tesoro rispetto a Paulson. Mi sembra che sì, che ci sia essenzialmente un tentativo di risolvere i problemi dei mercati finanziari, sostanzialmente sussidiando gli azionisti e in parte gli obbligazionisti, ma soprattutto gli azionisti delle banche, e che per fare questo poiché naturalmente questa è una posizione estremamente impopolare politicamente, per fare questo si cerchi di, appunto, di offuscare la situazione. A me pare, diciamo, innanzitutto parte di queste regole contabili che hanno permesso alle banche di sopravvalutare l'attività, di cui parlava prima, delle attività tossiche. Queste regole sono essenzialmente state introdotte, queste in particolare, state introdotte di corsa all'ultimo momento con una certa spinta da parte del Tesoro, quindi il Tesoro ha certamente contribuito lì. E poi la cosa che a me lascia veramente perplesso è questa discussione che sta avvenendo adesso su, appunto, come si fa lo stress test e soprattutto come si... diciamo, quali informazioni riguardo lo stress test saranno resi pubblici. Io trovo che questo sia abbastanza spaventoso, perché qualunque cosa si dirà, proprio perché in questo momento tutti pensano che il Tesoro stia manipolando lo stress test, allora potevano evitare di farlo, perché qualunque informazione sarà considerata, appunto, manipolazione del Tesoro. E quindi di che test stiamo parlando? Resta solo lo stress, no? Esattamente, resta solo lo stress, cioè probabilmente loro, diciamo, la Fed, il Tesoro, in questo contesto hanno assunto quantità di informazioni importanti su cui probabilmente agiranno anche con la politica monetaria. Questo è cosa buona, è importante, però diciamo, è importante che anche gli investitori istituzionali e non sappiano insomma, vengano a conoscenza di quello di cui è venuto a conoscenza del Tesoro, magari in maniera un minimo, insomma, appunto, evitare il panico, certamente, però questa idea di giocare coi trucchi, di cercare di fare, diciamo che non è un'idea nuova, perché siamo finiti in questo pantano proprio perché si giocava con le cartolarizzazioni, con i derivati, con il debito strutturato, impacchettato, diviso, spalmato e cosparso in tutto il mondo. Ora, insomma, invocare la trasparenza giustamente per General Motors e Chrysler, piani credibili, ecco, vorremmo piani credibili anche per le grandi banche d'affari americane. Dopo il meteo e la pubblicità, ho un'ultima domanda per lei, per metterla ancora più in difficoltà. Non vorrei che ci fosse più così affinità elettiva, per essere un po' alti come livello, tra Tim Geithner, ossia il segretario del Tesoro americano, e la comunità finanziaria di Wall Street, e quindi dei banchieri, per tutto un insieme di motivi, parlo di Geithner ma mi riferisco a tutto il suo team, rispetto alle affinità che lo stesso Geithner può avere con i manager di altre grandi imprese, per esempio le case automobilistiche. Cioè non vorrei che si stessero un po' aiutando a vicenda, ma è un sospetto assolutamente malizioso e cattivo, per cui lei me lo confuterà. ...17:38 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare, anzi concludere, il ragionamento sulle banche americane, sui conti delle banche americane, e poi parlare del Fondo Monetario Internazionale. Allora, Tim Geithner o Larry Summers, che è il suo, diciamo, padre putativo, professor Bisin, sono più e tutta l'amministrazione che ha a che fare con il Tesoro americano, sono più vicini come vita, come vissuto, come background ai manager di Wall Street, e quindi vogliono utilizzare anche questi giochetti, trucchetti contabili per salvare le banche, mentre sono più impietosi con i colossi o gli ex colossi di Detroit perché non si conoscono, non si pigliano? Guardi, lei prima diceva che avrei dovuto confutare questa. Io sono assolutamente d'accordo con lei, in realtà. Io credo che questo è grave. Io credo che ci sia questa questione, cioè credo che ovviamente ci sono due livelli qui, c'è un livello, diciamo, al di là della legalità, di cui ovviamente io non posso parlare, ma c'è, ne posso parlare perché non so nulla, ma non mi permetterei mai di farlo, ma c'è una questione proprio di, qui negli Stati Uniti si usa il termine regulatory capture, che vuol dire, insomma, catturare il regolatore, cioè c'è un pochino la questione che questi, Larry Summers e Tim Geithner in particolare, sono cresciuti in questo mondo, i loro amici, i loro rapporti, il loro modo di pensare è questo, e io ho la netta impressione che facciano fatica, come dire, a staccarsi da questa mentalità, a vedere in un certo senso le investment banks e i banchieri delle banche di investimento come in questo momento i personaggi contro i quali bisogna andare per risolvere il sistema, insomma, per risolvere il sistema finanziario. Io credo che loro facciano oggettivamente fatica a vedere questo. Credo che vedano invece sì l'auto un pochino più da lontano, non so se è una questione di frequentazione personale, ma certamente vedono l'aspetto politico importante della questione dell'auto, vedono chiaramente l'aspetto dell'occupazione, e agiscono, sembrano agire in maniera molto più diretta, corretta e, diciamo, appropriata. Nel distante, caso dei mercati distante. Finanziari non funziona, tra parentesi, giusto perché non ci sentiamo soli, è recentemente uscito un articolo di Simon Johnson sull'Atlantic Monthly, che è un giornale mensile. Simon Johnson è stato il capo degli economisti del Fondo Monetario Internazionale fino a qualche anno fa, quindi un personaggio di una certa rilevanza, che dice esattamente la stessa cosa, cioè lui dice: a vedere quello che sta succedendo adesso sembra di vedere quei paesi presso i quali io dovevo andare anni fa a cercare di spiegare che non avremmo finanziato fino al momento in cui il mondo politico non si fosse staccato dall'oligarchia finanziaria, e lui dice: guarda, l'America in questo momento sembra la stessa cosa, insomma. Quindi lei ci sta descrivendo, professor Bisin, da New York, una situazione in cui c'è un rapporto tra l'amministrazione di Tim Geithner, quindi il Tesoro americano, i manager e azionisti delle banche americane e chiaramente chi poi deve mettere i soldi su questi titoli. È un vero e proprio triangolo. Noi oggettivamente, come Renato Zero, il triangolo non l'avevamo considerato, professor Bisin. Io oggi devo metterla così perché sto per affrontare il tema del Fondo Monetario Internazionale e lei avrà visto le previsioni, qua c'è da ridere per non piangere. Grazie veramente ad Alberto Bisin in collegamento con noi. Grazie da New York, dove insegna alla New York University, da New York a Washington, il triangolo questa volta è Milano, New York, Washington, dove c'è Alessandro Merli. Alessandro, buonasera. Sì, buonasera. Allora, al di là dei trucchi contabili delle banche americane, vorrei capire quanto questa volta il Fondo Monetario ci può azzeccare, perché i dati che sono usciti fanno spavento. Addirittura praticamente Oliver Blanchard nella conferenza stampa ha detto che insomma quest'anno per il mondo, per l'economia mondiale, si chiuderà nel peggiore dei modi dal 1945. Sì, la contrazione prevista dal Fondo Monetario per l'economia mondiale dell'1,3% ed è il dato, come ha detto Blanchard, come hai ricordato, peggiore dal secondo dopoguerra. In questo contesto soprattutto le economie dei paesi industriali, dei grandi paesi industriali, hanno un andamento molto negativo. Tiene la Cina con una crescita attorno al 6%, in genere rispondono meglio quei paesi, quei grandi paesi emergenti che hanno un forte mercato interno che in qualche modo compensa il crollo delle esportazioni, del commercio mondiale e in genere il crollo della domanda, che dice Blanchard è la forza che sta tirando al ribasso l'economia mondiale. Quello che in qualche modo cerca di tenere la galla sono le azioni di politica economica. Le cose vanno male, ha detto Blanchard, se non ci fossero state queste azioni di politica economica, sia monetaria che fiscale, andrebbero malissimo, sarebbero quasi catastrofiche, saremmo, ha detto testualmente, in una recessione. Allora, insomma, dati, noi cerchiamo anche di alleggerire oggi, ma dati veramente che fanno spavento. Meno 2,8% il PIL americano, prezzi negativi, cioè deflazione in America, disoccupazione all'8,9% in America quest'anno, al 10% l'anno prossimo, cifra incredibile. Nell'area euro meno 4% in media, l'Irlanda meno 8%, crolla il PIL irlandese, meno 5,6% la Germania, auguri, il Regno Unito meno 4%, noi meno 4,4%, con delle prospettive, questa è la cosa che più, diciamo così, dispiace per l'Italia, delle prospettive negative anche nel 2010. Sentiamo allora come ha annunciato il capo economista del Fondo Monetario Internazionale, Oliver Blanchard. Le risposte senza precedenti fornite sia a livello finanziario che macroeconomico stanno gradualmente riportando la fiducia sui mercati. È però essenziale che continuino le azioni intraprese in modo da rafforzare e dare continuità ai primi segnali di miglioramento e per rendere sempre più solide le fondamenta per la ripresa economica. Voglio sottolineare che a causa dell'ampliarsi del deterioramento del credito, abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime riguardo le svalutazioni, sia reali che potenziali. La stima sulle svalutazioni degli asset originati negli Stati Uniti è stata portata da 2.200 miliardi di dollari, indicati a gennaio, a 2.700 miliardi. Estendendo la nostra analisi anche alle altre zone del mondo, siamo arrivati al risultato che le svalutazioni entro il 2010 potrebbero raggiungere i 4.000 miliardi di dollari, di cui due terzi facenti capo alle banche. Voglio evidenziare, tuttavia, che le nostre stime rimangono soggette a un alto livello di incertezza. Poi c'è una nota in realtà piccola di così, ottimismo. I recenti dati offrono indicazioni che di una moderazione nella contrazione dell'economia, meno male, perché sennò chissà cosa avrebbe scritto il Fondo Monetario Internazionale. Alessandro Merli, dopo le informazioni per chi è in viaggio, vorrei però tornare sul tema di, insomma, a gennaio il Fondo ha diffuso delle stime che erano praticamente brutte, ma un terzo rispetto a queste, no? Il PIL doveva contrarsi dello 0,5 su base mondiale, tutto era un terzo. Passano tre mesi, il pessimismo triplica, e allora vorrei capire anche queste stime quanto vengono preparate all'istante, quanto sono frutto di un ragionamento. Di nuovo in diretta. Una nota di servizio, non lo facciamo mai, chiedo però a un ascoltatore in particolare di limitare il numero di SMS perché sta intasando oggettivamente lo schermo. Caro Buddy, la seguiamo con attenzione, però uno, due messaggi al giorno sono più che sufficienti. Lasci spazio anche agli altri. Chiusa la nota di servizio, Alessandro Merli da Washington. Le prossime stime, tanto le rivedrà ste stime, abbiamo capito, potrebbero essere in meglio o non so cosa ci dirà, che andremo alla recessione peggiore da quando è stata scoperta la ruota. Dici. Ma diciamo che gli economisti hanno delle grossissime difficoltà a tenere dietro all'evoluzione di questa fase economica, quella che il ministro Tremonti ha definito terra incognita, no? Ci sono delle grossissime difficoltà a prevedere quello che sta succedendo, perché molti di questi fenomeni non si sono verificati prima o non si sono verificati in questo modo da almeno 70 anni. Soprattutto si sta verificando quello che Blanchard ha definito il circolo vizioso, l'avvitamento fra finanza ed economia reale, per cui siamo partiti dalla crisi finanziaria che ha avuto ripercussioni sull'economia reale, questa a sua volta sta di nuovo impattando, come abbiamo visto, sui bilanci delle banche. E questo avvitamento che secondo me gli economisti, non solo quelli del Fondo Monetario, ma anche quelli, diciamo, indipendenti privati, hanno avuto difficoltà a prevedere. Per quello che riguarda il futuro, diciamo che il Fondo vede una ripresa proprio perché la crisi determinata da dei problemi della finanza e perché è sincronizzata un po' in tutto il mondo, con qualche eccezione, vede una ripresa, un'uscita dalla crisi più lenta di quello che non sia avvenuto in passato e più graduale. Per il momento si parla del 2010, in particolare della seconda metà del 2010. Se si guarda le cifre, diciamo ultimo trimestre su ultimo trimestre, quelle dell'ultimo trimestre del 2010 cominciano a essere positive in modo abbastanza significativo. Il fondo parla, cioè, l'ultimo, scusami Alessandro, l'ultimo trimestre del 2010? Ho capito bene? L'ultimo trimestre del 2010 rispetto all'ultimo trimestre del 2009 farà registrare una crescita abbastanza marcata. Speravo l'ultimo trimestre del 2009. Per il mondo del 2,6, no, alla fine 2009 saremo ancora in territorio negativo, sia per il mondo e a maggior ragione per gli Stati Uniti e per l'Europa, che sono le aree che assorbono di più di questa contrazione. Chiaro. Quindi parliamo della seconda metà del 2010. Le stime del fondo riguardano appunto l'ultimo trimestre, che rispetto all'ultimo trimestre farà segnare un progresso del 2,7 per quello, ecco, che riguarda l'economia mondiale. Alessandro Merli, tu sei chiaramente nella sede del Fondo Monetario Internazionale a Washington, non ti voglio mettere in difficoltà eccessiva, però come scrivono molti ascoltatori, cerco di sintetizzare i commenti non sempre forbiti che arrivano al 349-238-6666. Cioè, a me ricordo un po' quello che sta facendo il Fondo Monetario, ma anche l'Ocse. Quando tu chiedi un'informazione perché non sai dove andare, hai bisogno di un'informazione stradale, e c'è una categoria devastante di persone che, anche se non sa dove ti deve mandare perché non conosce la strada, deve comunque darti una risposta perché gliel'hai chiesto, no? E non ha il coraggio di dirti non lo so, e ti manda a quel punto in direzione completamente sbagliata. Se questa è una terra incognita, se a gennaio prevedevano meno 0,5 a livello mondiale, adesso prevedono meno 1,9, meno 1,3, forse stare zitti, no? O sono obbligati a fare il meeting, a parlare? Ma credo che sia positivo questo fatto che abbiano forse accorciato i tempi, proprio perché siamo in una fase di grande incertezza, accorciato i tempi della pubblicazione di queste previsioni. Una volta avveniva due volte all'anno questo esercizio, no? Il fatto di averli accorciati di molto almeno evita di shock ancora peggiori, cioè se guardiamo quello che avevano detto sei mesi fa. Ma devo dire, adesso non perché tu dici sono nella sede del Fondo Monetario, ma non è che mi arrestano, siamo liberi di criticarlo. Magari non ti fanno però uscire. Credo che, ma non credo, magari non mi fanno entrare la prossima volta, però credo che il Fondo Monetario sia un po' nella stessa barca di molti altri previsori, sia di mercato che non di mercato, cioè non ho visto nel contesto delle o nell'ambito di tutte le previsioni che sono uscite in questi anni qualcuno che ci abbia azzeccato in modo particolare. Forse Rubini può rivendicare di aver detto prima di tutti che questa crisi è in arrivo, però diciamo che in genere non abbiamo avuto, proprio perché è una crisi con pochissimi precedenti, non abbiamo avuto delle performance particolarmente brillanti anche da altri estensori di queste previsioni. No, va bene. No, insomma, stanno un po' cercando di tenere il passo con una crisi che evidentemente si è mossa molto più rapidamente di quello che chiunque aveva visto. Teniamo conto di un'altra cosa, che il Fondo Monetario è ovviamente un'istituzione composta dai paesi membri, che questi tendono ad esercitare delle pressioni sul fondo. Non dimentichiamo che l'anno scorso, quando il Fondo Monetario fece delle previsioni che vennero giudicate troppo negative sia dagli Stati Uniti che dai paesi europei, fu sommerso da una valanga di critiche dai governi sia di Washington che dei paesi. Questo non ha impedito al Fondo Monetario di continuare a rivedere al ribasso le previsioni, però se fosse dipeso dal governo americano o dai ministri finanziari europei, il Fondo Monetario avrebbe dovuto dipingere ancora, già nel pieno della crisi, gli scenari che continuavano a rimanere. Gli scenari positivi. E qui vediamo appunto questa figura geometrica che prima individuavamo tra le banche d'affari americane, il tesoro americano e gli investitori. Adesso si ripropone tra il Fondo Monetario, i governi che fanno pressione sul fondo monetario e chiaramente anche la necessità del mercato di voler credere in queste cose, quindi un altro triangolo. Grazie Alessandro Merli. Adesso parliamo di borsa, anzi accenniamo alla borsa, ne parleremo dopo le informazioni del nostro GR. La borsa oggi è l'unica cosa positiva di questa giornata economico-finanziaria, più che positiva a Milano, più 2,3% il Mibtel, più 2,2% l'S&P MIB, Francoforte più 2%, Parigi più 1,7%, Londra più 1%. L'America in questo momento guadagna lo 0,87%, euro a quota 1,30, molto bene e molto forte. Pirelli, che ha chiuso sui massimi, più 11%, 27 centesimi di euro. Autogrill più 7,7%, Geox più 6%, come Buzzi Unicem. Atlantia più 5,5%, l'Automatica più 4,3% come Monte dei Paschi. 4,2% lo guadagna Tenaris e Mediobanca. Il 3,80% è il rialzo di Finmeccanica e di Mediaset, più 3,5% Italcementi e Bulgari, più 3,3% Luxottica, CIR e Prismian. Negativa Campari, meno 1,2%, Parmalat, meno 1,1%, Mediolanum, meno 0,6%. Ancora Finmeccanica, più 3,80% abbiamo detto, di positivo c'è un Unicredit, più 2,8% e Fiat, più 2,7%. minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, in questa puntata in cui, cercando di essere anche un po' ironici, perché sennò veramente arrivare all'ultimo trimestre del 2010, che come prevede il Fondo Monetario Internazionale, ci sarà un po' di ripresa, è dura, dicevo, dopo aver parlato dei trucchi contabili legali, perché è lo stesso Tesoro americano che li mette in pratica nei bilanci delle banche d'affari americane e delle previsioni del Fondo Monetario Internazionale, ripeto, devastanti se prese tutte così come oro colato. Speriamo che le revisioni continue del fondo ogni tanto siano revisioni anche al rialzo. Certo che la situazione resta pesantissima. Adesso la borsa, che è, devo dire, oggi la notizia migliore che riusciamo a vedere, perché la borsa a Milano soprattutto ha chiuso bene, più 2,3% sul Mibtel, più 2,2% sull'S&P MIB, Parigi più 1,7%, Francoforte più 2%, Londra più 1%, l'America guadagna lo 0,80%. I titoli li abbiamo già ricordati, allora non resta che commentare le variazioni principali, come sempre con i colleghi di Radio Core, Il Sole 24 Ore. oggi nella persona di Guido Maurino. Buonasera Guido. Buonasera. Pirelli, miglior titolo dell'S&P MIB, più 10,9%, e qui ci sono state le dichiarazioni di Marco Tronchetti Provera, le stime sul 2009, ma anche qualche giudizio, no? Sì, appunto, diciamo che il titolo continua a guadagnare, come aveva già fatto ieri quando aveva mostrato un progresso del più 5,3%, oggi ci aggiunge un altro più 10,96%, perché i conti trimestrali sostanzialmente sono migliori, almeno di quello che si attendevano gli analisti, e sono in linea a quanto avevano annunciato nel piano industriale l'11 febbraio. In linea a quanto è successo, a quanto annunciato ieri dalla società, oggi alcune banche d'affari hanno rivisto un po' i loro giudizi. Ex Ambient Paribas, ad esempio, ha rivisto la sua raccomandazione a neutral da underperform e ha indicato come target price 0,26 euro, che oggi in realtà sarebbe già stato superato perché 0,2785. Allo stesso modo Société Générale ha confermato come giudizio buy, quindi comprare, con target price a 0,3 euro. Questo per quello che riguarda le Pirelli. Secondo miglior titolo ricordavamo Autogrill. E Fiat positiva, ci mancherebbe, più 2,7% a 7,47 euro, però insomma in media col mercato, ma non certo in evidenza. Autogrill e Fiat. Allora, Autogrill diciamo che si è mossa in rialzo oggi in borsa, anche qui in linea alle prospettive indicate ieri dal presidente Gilberto Benetton, che ha detto sostanzialmente che sì, il 2009 sarà ancora un anno difficile, ma in qualche modo meno peggio di quanto ci si potesse aspettare qualche mese fa. Sostanzialmente il traffico sta tenendo, per cui sostanzialmente le attese sono un po' meno cattive di quello che ci si immaginava. Per quanto riguarda Fiat invece c'è attesa, perché domani ci sarà il CDA dovrà esaminare i conti trimestrali del gruppo. E diciamo che le indicazioni da questo punto di vista arrivate oggi non sono propriamente incoraggianti, in quanto Peugeot, che ha dato oggi l'indicazione sul fatturato, ha indicato come il fatturato nel primo trimestre è sceso del 25%, mentre Volkswagen ha evidenziato un calo dell'utile del 74%, per cui insomma le attese per il settore auto non sono buone. D'altra parte però si guarda anche molto a Chrysler, a cosa succederà dopo che le banche creditrici del colosso dell'auto degli Stati Uniti hanno inviato al Tesoro una controproposta che prevede la rinuncia del 35% dei quasi 7 miliardi di credito contro l'85% che invece chiedeva l'amministrazione Obama. Insomma, domani si farà anche il punto probabilmente sulla questione Chrysler e il mercato guarda agli sviluppi. Le banche ci chiedono al 349-238-6666 delle banche, di vari titoli. Oggi bene tutto il comparto bancario, chi più chi meno, ma insomma di negativo nelle banche non c'è praticamente nulla. Quella che cresce meno è la Popolare di Milano, più 0,4%, e UbiBanca più 0,7%. Per il resto i rialzi li ricordavamo, dal 2,8% di Unicredito, il 3% del Banco Popolare, fino al Monte dei Paschi, più 4,3%, ben intonati tutti i titoli. Sì, diciamo che c'è stato un attimino di piccolo caos subito dopo la diffusione dei conti di Morgan Stanley, che sono stati conti, diciamo, ancora pesanti, con una perdita netta di 177 milioni di dollari nel primo trimestre rispetto a un utile di 1,4 miliardi registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. Tuttavia un po' il segretario del Tesoro Gainer ha rassicurato sulla solidità del sistema bancario degli Stati Uniti, un po' altri dati come ad esempio quelli di Wells Fargo, che ha confermato invece un utile importante, hanno un po' moderato questo atteggiamento negativo che si era creato sul settore bancario, per cui insomma, come dicevi tu, alla fine ha prevalso una lettura diciamo ottimistica sul settore bancario, e per cui Monte dei Paschi ad esempio ha guadagnato il 4,27%, ma anche Mediobanca ha guadagnato il 4,18%. Questo per quello che riguarda le banche. Ancora qualche titolo: la vicenda argentina, che abbiamo raccontato nelle settimane scorse, pesa su Telecom Italia, però il titolo si avvicina a un euro per azione, 93 centesimi per la precisione, e anche Mediaset oggi abbiamo visto un andamento direi tutto sommato più che positivo per il titolo, meno bene lì, però non capisco i motivi, Campari, Parmalat e Mediolanum. Ma nessuna ragione particolare se non appunto alcune banche d'affari che hanno rivisto i loro giudizi, ad esempio, e questo ha penalizzato Campari che ha ceduto l'1,24%. Ricordiamo anche che Campari comunque aveva guadagnato molto nell'ultimo periodo da quando era, diciamo, entrata nel listino principale, per cui in qualche modo è anche normale che a un certo punto questo rialzo continuo dovesse in qualche modo assestarsi un attimino. Nessuna ragione particolare sugli altri titoli, che d'altra parte Parma cede l'1,10%, Mediolanum lo 0,63%, Terna, che è abitualmente un titolo difensivo, cede lo 0,43%, in qualche modo è comprensibile, una giornata abbastanza spumeggiante, diciamo, per la borsa. Le banche d'affari hanno rivisto quindi alcuni giudizi, mai che li rivedano su se stesse le banche d'affari e i giudizi, ma questo lo sappiamo. E il miglior titolo, Cell Therapeutics più 31,6%, Socoterm più 21%, ancora Trevisan Comital più 18%, sono titoli molto molto sottili, Coin più 13% e poi Pirelli, di cui abbiamo parlato. Peggior titolo, investimenti e sviluppo meno 10%, RG Capital meno 13%, anche qui titoli molto molto sottili. Grazie a Guido Maurino di Radio Cori sulle 24 ore. Dicevamo dell'Istat, il rapporto sulla povertà assoluta, i cosiddetti poveri dei poveri. Devo dire che dopo il rapporto ieri della Banca d'Italia, la fotografia scattata dal 93 al 2007, anche questo rapporto è abbastanza in linea, cioè non è aumentato il numero dei poveri assoluti nel nostro paese, restano elevati 2 milioni e mezzo di italiani in povertà assoluta, 975 mila famiglie, il 4% di tutti i nuclei familiari. Ieri, come ricordavamo, la Banca d'Italia ha diffuso il rapporto che vede dal 93 in poi non aumentare in termini assoluti negli ultimi 15 anni le disuguaglianze, e quindi l'indice che misura la differenza tra chi sta male e chi sta molto bene. Dentro però il rapporto della Banca d'Italia, alla stessa Banca d'Italia, fotografa dei movimenti a vantaggio degli autonomi, dei lavoratori autonomi e dei pensionati, e anche dei dirigenti un po', e a svantaggio invece dei lavoratori dipendenti, in particolar modo impiegati e operai, come ci racconta questa scheda. È che si è veramente poveri. Secondo l'Istat, quando una coppia con due figli di una grande città del nord non raggiunge una spesa mensile di 1.500 euro, oppure quando la spesa di una coppia senza figli che vive in una città del centro non supera i 934 euro. Sono solo due esempi tra una molteplicità di casi calcolati dall'Istat considerando luogo di residenza, età e componenti del nucleo familiare e facendo riferimento al cosiddetto paniere di povertà assoluta. In pratica, un insieme di beni ritenuti indispensabili per uno standard di vita accettabile. Non sorprende che la povertà assoluta riguardi maggiormente il Mezzogiorno, dove colpisce una famiglia su cinque e che sia spesso collegata a bassi livelli di istruzione e a nuclei familiari numerosi. Più interessante notare come, almeno fino a prima dello scoppio della crisi, la povertà assoluta sia rimasta stabile. Il 4% dell'intera popolazione, pari a 2,5 milioni di persone, è infatti lo stesso livello registrato nel 2005 e nel 2006. Di sostanziale stazionarietà della scala del benessere parla anche la Banca d'Italia, secondo cui dal 1993 al 2008 il livello di diseguaglianza non è aumentato. Via Nazionale fa però anche importanti precisazioni. Le disparità sono sì stabili, ma restano elevate. L'1% più benestante della popolazione possiede il 15% della ricchezza, il 60% più povero solo il 17%. Una distanza superiore a quelle che si registrano in Svezia e Giappone, ma anche Germania, Francia o Spagna. Inoltre, se il numero complessivo di ricchi e di poveri è rimasto invariato, non significa che non ci siano stati rimescolamenti tra categorie. A beneficiarne sono stati i lavoratori autonomi, il cui reddito reale è aumentato negli ultimi 15 anni del 2,6%, i dirigenti più 1,5%, ma anche i pensionati che hanno visto il potere d'acquisto aumentare dell'1,6%. Molto più lenta, invece, la crescita del reddito di operai e impiegati, rispettivamente più 0,6 e più 0,3%, mentre per i più giovani i salari d'ingresso nel mondo del lavoro si sono addirittura ridotti in termini reali. Invariato il dato aggregato sia per quello che riguarda l'Istat di oggi sulla povertà, sia per quello che sulla povertà assoluta, sia per quello che riguardava ieri il rapporto della Banca d'Italia. Dentro le cose invece si sono mosse. La cronaca di questa giornata economico-finanziaria ha un ultimo appuntamento oggi in questo programma che si chiama Salone del Mobile. Già altre volte ne abbiamo parlato, anche perché il mobile arredo, una delle 4A fondamentale del nostro Made in Italy, continua a essere un settore che occupa quasi mezzo milione di addetti, con 75.000 imprese e 38 miliardi quasi di fatturato. Difficoltà nel 2008, sì, ma abbastanza contenute. L'export complessivamente è calato del 2%. Difficoltà nel 2009, sì, ma qualche segnale di ripresa si intravede, come, visto che oggi si inaugurava ufficialmente la 48esima edizione presso la Fiera di Milano Ro fino al 27 aprile, dicevo, come ha ricordato lo stesso ministro dello sviluppo economico Claudio Scajola, ascoltiamolo al microfono della nostra Lara Vecchio, ricordare proprio come i primi segnali positivi arrivino dal settore del cosiddetto legno arredo. Tutto ciò che esalta le qualità tipiche dell'italiano, che sono quella della creatività, quella del gusto, quella di ricollegarsi ad una storia, ad una cultura nostra molto significativa, sono attività che vanno aiutate. Se si punta sull'innovazione del prodotto, si riesce a competere sui mercati. Il settore dell'arredo, il settore del mobile è riuscito a puntare su un design significativo, che significa anche più sicurezza, più durata, più bellezza, migliora la qualità della vita del cittadino, ed è per questo, credo, che abbia avuto grande riuscita in tutto il mondo. Interessa l'incentivo che abbiamo messo per chi, ristrutturando l'alloggio, inserisce anche il nuovo arredo dell'abitazione, interessa una platea di 400.000 famiglie. Certamente parte un po' dopo, prima bisogna fare la ristrutturazione della casa e quindi poi dopo si mobilia, però credo che sia un giusto riconoscimento ed aiuto in un settore che ha sofferto, ma che incomincia a vedere già con i dati di marzo una modesta ripresa, ma comunque una inversione di tendenza verso il bello. Così il ministro allo sviluppo economico Claudio Scajola, e di segnali di miglioramento a partire nel settore del mobile, del legno arredo, ha parlato anche la presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, che però ha lanciato anche un monito affinché non ci sia una crescita eccessiva del debito pubblico nel nostro paese. Ascoltiamola sempre al microfono della nostra Lara Vecchio. È ancora presto per dirlo, però settori come per esempio questo già da marzo hanno visto qualche miglioramento proprio anche nel mercato interno in Italia, quindi noi anche come Centro Studi Confindustria pensiamo che nella seconda parte dell'anno si possa vedere qualche miglioramento, quindi dobbiamo essere ancora tutti prudenti perché la crisi è forte, però soprattutto da alcuni settori che hanno fatto della ricerca, dell'innovazione, della capacità di stare sui mercati, il loro credo si intravede qualche segnale di miglioramento. diciamo che ci sono state alcune cose a favore, come per esempio gli ammortizzatori sociali in deroga per le piccole imprese che prima non erano fatte, questo fondo di garanzia. Adesso però serve ancora di più, non è che possiamo fermarci qui, servono secondo noi degli sgravi fiscali a favore degli investimenti per far ripartire l'economia, e servono anche degli sgravi fiscali per chi decide di aumentare il capitale delle proprie imprese. In un momento come questo, imprese con troppo poco capitale rischiano di essere spazzate via dal mercato, non ottenere il credito. Quindi noi chiediamo che il governo oggi sia attento proprio su questi temi della capitalizzazione e di un incentivo agli investimenti. E l'altra cosa, bisogna tornare a parlare di tagli della spesa pubblica, soprattutto in produttiva, che in questo paese continua a crescere. Noi abbiamo già un debito pubblico molto alto, dobbiamo assolutamente tornare a parlare di tagli della spesa pubblica in produttiva. E con questo termina la puntata odierna di Focus Economia. Da Sebastiano Berisoni un auguro di buon fine serata. Noi ci risentiamo come sempre domani dalle 17 in poi.